Oggi facciamo gli auguri di compleanno a un'icona del basket anni 80, il decennio più bello. Sicuramente anche tra i primi 5 o 6 giocatori nel ruolo di questo periodo. Spegne 68 candeline. Morris Mosix. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, caro Paolo. Due parole prima di entrare nell'identikit di questo grande atleta e in seguito poi anche coach per la puntata odierna. Ho già detto più volte che il filo conduttore è l'avvio, l'inizio, la ripresa dell'impegno, della particolarità emotiva che contraddistingue questa sensazione, che può essere a volte anche timore, può essere entusiasmo, può essere la capacità di voler trasformare il percorso nella ripresa delle attività, può essere la paura dell'inciampo, dell'imprevedibile fato che può mettere negativamente lo zampino nelle nostre attività, ma anche l'entusiasmo di rilanciare con innovazione quello che sarà la stagione che ci attende. Nel Move to Groove di oggi l'attenzione vuole anche essere portata, visto che l'inizio è con una palla 2, a una rubrica che sarà sia sul mio profilo personale che sulla pagina del Breakfast Club, grazie al lavoro di Paolo Onofri, che non è solo un contrappunto, ma è anche una ricerca per questa palla 2 iniziale. Del resto, la palla 2 è l'inizio, no? La palla contesa iniziale di un agonismo cestistico, e allora le due cose vanno di pari passo. Vanno di pari passo grazie al protagonista in questione, anche perché si inizia bene con un grande playmaker. Risponde a nome di Morris Chicks. È stato un atleta, poi in seguito un coach che ha fatto la storia del grande basket. Preciso, certo, non è un appunto di critica, anzi tutt'altro, con la presentazione di Paolo, però nel mio personale taccuino, chiamiamolo così, per me negli anni del grande basket, diciamo tra il 79 e i primissimi anni 90, più o meno, quello che è stato il decennio più bello, almeno per la pallacanestro lo è stato, ecco, diciamo così, per me come playmaker puro, sia per caratteristiche fisiche, tecniche, di cui parleremo, Morris Chicks è il miglior modo per iniziare la nostra puntata. E anche per quanto riguarda i contenuti tecnici, i contenuti difensivi, l'acume tattico, la capacità totale di interpretare questo ruolo, dal carisma alla disponibilità, alla generosità e a quello che dal via a un quintetto base veramente importante, beh, iniziare da Morris Chicks direi che è un ottimo inizio. E quindi ha visto l'importanza della sua carriera in Pennsylvania, nella squadra franchigia dei Philadelphia 76ers. Allora, per aprire la playlist, ho preso questo brano che porta le radici del Philly Soul con Philadelphia Roots. Iniziamo con musica a tema nel Move to Groove di oggi e poi torniamo in diretta perché vogliamo saperne di più a proposito del grande Morris Chicks. A tra poco! anni che ha dato il via a Philadelphia Roots, le origini in questa selezione per Soul Jazz Record, che ha dato via a quello che poi sarebbe stato il Philly Soul, la sonorità, the sound of Philadelphia. Perché Philadelphia? Perché Maurice Chicks, i principali successi come atleta fino alla vittoria per l'anello nel 1983, l'ha visto protagonista appunto nei 76ers, o più semplicemente nei Sixers. Era per iniziare un grande quintetto, beh, e che quintetto mi viene da dire, con Andrew Toney, The Machine, il compagno di linea, guardia dei Philadelphia 76ers, non ha bisogno di presentazione, The Doctor, Dr. J, l'ala piccola che ha fatto della spettacolarità una delle particolari attenzioni per il basket NBA nel suo arrivo in Italia, e poi in conclusione un Moses Malone, uno dei centri fondamentali per il decennio protagonista nel grande basket. Abbiamo anche il segretario della difesa, Bobby Jones, partiva spesso da sesto uomo, ma indubbiamente un sesto uomo che dire di lusso è un eufemismo. Siamo partiti con una point guard, ma più precisamente, la differenza l'ho già spiegata più volte, in questo caso un playmaker, sia per caratteristiche fisiche, 1,88 di statura, viene portato nel roster come 6'1, 6 piedi e 1,86, ecco, to per essere più precisi, in una statura contenuta e anche in un aspetto atletico, diciamo molto reattivo, ma certamente più dedicato alla concretezza che al gesto atletico spettacolare. Beh, per questo c'era Julius Irving. Atleta, cestista, estremamente serio, un vero professionista, un grande cuore, una disponibilità anche da allenatore, lo ricordiamo per l'episodio durante un All-Star Game nel lasciare la panchina e soccorrere una giovane interprete nell'esecuzione dell'inno nazionale degli Stati Uniti d'America. Maurice Chicks iniziò a cantare assieme a lei, un pochettino imbarazzata, allora lui che fa? Procede nell'incoraggiarla. Non è certo un cantante, ma sicuramente doti per quanto riguarda la generosità ci sono, e come. Gira agli Stati Uniti d'America, nasce a Chicago nell'Illinois, il college sarà nel West Texas University, non è tra le primissime scelte, esce dal college nel 1978, nel draft ricco di quell'anno di cui magari parleremo, sarà scelto con il numero 14 però al secondo giro, quindi una scelta certamente non eccellente se vogliamo, ma l'espressione cestistica sarà veramente di un immenso valore. E probabilmente il filo conduttore dell'inizio diventa molto sovrapponibile a Maurice Chicks, perché dà sicurezza, un giocatore che dà sicurezza, un giocatore che nella parte difensiva del gioco, beh, era veramente la bestia nera di tutte le guardie che potevano scontrarsi contro di lui, una capacità difensiva che grazie alla reattività, l'intelligenza, l'intuizione dava gravi difficoltà nell'esecuzione offensiva degli avversari, eh? Vincerà la classifica delle palle rubate o palle recuperate, questa è un'attenzione difensiva molto molto incisiva, per diverse stagioni. Un atleta che poi sarà anche allenatore, visto queste caratteristiche di acume, di dialogo continuo e di costanza affidabilissima. Io ritengo Nate Archibald, protagonista la scorsa puntata, un atleta più vicino al decennio degli anni 70. Negli anni 80, allora, possiamo parlare di John Stockton, di Isaiah Thomas e Beh, per atleti chiaramente legati al ruolo, ma con caratteristiche che non sono esattamente il tipico playmaker, ovviamente Magic Johnson. Ecco, secondo me tra il tipico playmaker, per me Maurice Cheeks è l'atleta, questo è gusto personale, che sceglierei. Per me lui è un fenomeno tutti i tempi. Ci sono due parole chiave: gioco di squadra e difesa. Ecco, Maurice Cheeks è fatto dal sarto per queste due componenti del basket. Deve armare le mani dei suoi compagni, mani molto educate, ricordiamo Tony, Julius Erving, Moses Malone, Bobby Jones, per poi arrivare anche a Charles Barkley. E difesa arcigna sulla linea dei tre punti e sul perimetro. Doc Rivers, che l'ha incrociato, diciamo, un paio di volte in carriera, lui partiva piano, faceva sembrare che non fosse un granché, e man mano che andava avanti la partita ti metteva sempre più pressione, stritolandoti come farebbe un pitone con la sua preda. Alla fine eri sfinito. Anche alla nostra Irma, magari già in redazione, anche se la voce è di Irma Thomas. Sto oscillando tra il Philly Soul, almeno le origini del Philly Soul, e un soul southern della Stax, magari più sanguigno, più apparentemente intenso, perché allo stesso modo anche il Philly Soul aveva la sua intensità. Intensità più di raffinatezza. L'inizio, come giustamente e perfettamente ha descritto Paolo in questo caso, visto che è la parola di oggi, l'inizio in sordina, l'inizio apparentemente, come in questo caso ritenuto, non dico sottotono, però un inizio normale che diventa diversamente normale nella sua costante crescita. La costante crescita è un po' quello che il coach, se vogliamo definirlo in questo caso, o docente Maurice Cheeks di grande pallacanestro aveva come sensazione. Inizio, ripresa, può essere anche esordio, è l'intesa di inizio, ma in questo caso mi soffermo su una ripresa che sarà poi a breve, non so esattamente perché non ci si capisce. Che bei tempi quando la scuola iniziava il 1° ottobre e terminava il 15 giugno, così abbiamo le idee chiare, no? Ma quando sei nato, William? Sono nato il giorno in cui finiscono le scuole. Questo per dirvi la mia attenzione per l'aspetto accademico didattico. Io si festeggia. Sono nato quando finiscono le scuole. Però adesso né per l'inizio né per la fine si ha più un'idea chiara, insomma. È diversificato a seconda delle regioni. Sarebbe un ottimo professore Maurice Chicks, di questo ho certezza e non ho dubbi, e per iniziare un buon quintetto e poi procedere, perché avremo un'identikit anche nella seconda parte, sempre dedicato all'inizio nel percorso. Poi siamo all'inizio anche della stagione 2024-2025, l'inizio in sordina o in costante crescita, l'inizio esplosivo, ecco, sarà invece protagonista nella seconda da parte. Maurice Chicks inizierà dal draft del 1978, sarà presente nelle franchigie NBA, concluderà la sua carriera in altri team, sempre presente, sempre fondamentale, ma per quanto riguarda la sua attività lo riconosco ovviamente nei Philadelphia 76ers, gloriosi nel 1983 con la vincita del loro anello. Sarà l'unico che vincerà Maurice Chicks, un playmaker tutto sostanza, fondamentale per avere un dream team anni 80 di grande basket, unico e speciale. Musica tornando a quelle che sono le sonorità di Philadelphia, a tal proposito, e poi pubblicità, e nuovamente tra primo e secondo tempo sarà alzata la palla 2 da Paolo Onofri. A tra poco, buon ascolto. perché oggi è un giorno fortunato, perché oltre a Maurice Six spegne 70 candeline il compianto Greyhound Walter Davis. Secondo tempo, 8:37 minuti in questa seconda parte, la palla 2 dedicata al compianto recentemente scomparso Greyhound of the Parquet, il levriero per la sua eleganza, il levriero del parquet Walter Davis, eleganza un po' dinoccolata come questo brano che stiamo ascoltando di Joe Gibbs, elegante nel portare partenza in questo caso e inizio, che è parola d'ordine, esplosivo, sì, perché elegante, dinoccolato, ma con una capacità di essere terminale offensivo, oltre che preciso, anche molto immediato. Da North Carolina, è un atleta che sin dal lustro del college, che ha avuto importanza per la sua formazione, hanno intuito coach e dirigenti che sarebbe stato più importante nella NBA. C'è una netta differenza, possono esserci atleti, io riporto l'esempio di Michael Jordan, che è uno tra i più importanti, ovviamente, che nel college ha diviso la gloria con atleti del calibro di James Worthy, di Sam Perkins, e ha avuto allo stesso modo un momento di coprotagonismo, ma già, pur essendo coprotagonista nell'NCAA, si sarebbe intuito che sarebbe stato protagonista assoluto, assoluto nella NBA. Adesso Walter Davis non ha avuto chiaramente la stessa carriera, però vi assicuro che The Greyhound of the Parquet dal college, certo, una carriera importante, ma l'esplosione arriva nell'NBA. Sarà scelto in un draft particolare e ricco nel 1977, quindi un anno prima alla scelta del protagonista precedente, che ha visto la puntata del Mood Groove di oggi, è stato Maurice Six. L'anno precedente, 1977, è anche a sua volta un numero di scelta molto più alto. Lui è quinta scelta assoluta per la stagione 77-78 nella NBA. Allo stesso modo verranno scelti Jack Sigma, verrà scelto Otis Birdsong, verrà scelto Marcus Johnson da UCLA. Pensate che nomi! A campo aperto, giocatore che leggeva la difesa per batterla regolarmente, giocatore con un primo passo molto molto intuitivo per battere l'avversario in uno contro uno, giocatore che è preciso dalla distanza allo stesso modo con un uno contro uno bruciante, dotato di tecnica, che è appunto l'eleganza del Greyhound, il levriero. La classe non è acqua. Ecco, pensando nel vedere all'inizio, da subito, la prima impressione, osservando un atleta come Walter Davis, il primo motto che ti viene alla mente è: ok, la classe non è acqua. (Sussurra)

di un cestista e di un uomo veramente di classe, oltre che talentuoso sul parquet, come ho detto, signore anche al di fuori. Io ti ringrazio tantissimo, Jason, per questa conversazione che mi ha anche portato indietro un po' negli anni, quando si passava le serate a parlare di atletiche. Non erano esattamente Bird Magic, Julius Erving, Karim Abdul-Jabbar, ma figure che meritavano un podio anche loro. Assolutamente. E anche per questo che il Move to Groove è stato voluto in frequenza su Radio Città Fujiko. Anni importanti per la pallacanestro, definiti da me di rivoluzione cestistica fino alla normalizzazione, che è altrettanto importante, da Michael Jordan fino al 2000. Poi sappiamo tutti come sono andate, insomma, le cose. Per cui io ti ringrazio tantissimo di questa conversazione. Ci vedremo presto, me lo auguro. Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao. Per chi è amante della purezza del gioco, della bellezza del gioco, non sì. può non ammirare e stropicciarsi gli occhi davanti a Walter Davis. Ottimo l'accostamento a DeRozan, ci sta, bravo Jason, però posso dire una cosa, DeRozan sbava un po' più il foglio, è un po' più sciuppone, forzatore, più uno contro uno, un po' più accentrato. Ecco, Walter Davis era molto più pulito sul campo da basket, una pulizia veramente di primo ordine. Buongiorno Mutto Groove, buongiorno Lino, 333-180-9494, Chicks e i Sixers. Che basket, poi quando arrivò anche Moses Malone, arrivò anche il titolo. Grazie Lino, una carezza a Wolf e una buona giornata. Inizio di studio, beh, in tutti i sensi, inizio di studio o inizio esplosivo e dirompente, sono le caratteristiche nel concreto che portano questo procedere nella ripresa o nell'esordio. Allo stesso modo, dal punto di vista emotivo, non è esattamente timore, ecco, paura, no, però allo stesso tempo un'attenzione oppure un entusiasmo totale. Sono le caratteristiche dell'inizio, parola che ha dato aire, per così dire, fil rouge al Move to Groove odierno, con la palla 2, grazie a Paolo Onofri, dedicata a due grandissimi del vero basket, Maurice Chicks and the Greyhound, Walter Davis. Thank you. sonorità che arrivano da Philadelphia, dal Southern Soul e in questo caso anche dalla Florida, da Miami. Funkadelic Sound, The Little Beaver. Ieri la presentazione per l'edizione 2024 per la consegna della stella a proposito della strada del jazz, che magari domani lo porteremo in last minute prima del voltiamo pagina, perché il magico mercoledì di Radio Città Fujiko vi dà la possibilità, come i magazine, di arricchire la vostra biblioteca, oltre che di conoscere le due uscite presentate da Silvia Albertazzi e il sottoscritto William Piana. Questo speciale inizio ripartenza alle 8:54 minuti vola verso il termine per darvi appuntamento a domani. Allora Paolo, che dici come linea di guardie Maurice Chicks e Walter Davis? Mica male, magari la prossima puntata, chissà, porteremo gli auguri a un'ala, a una small forward e una power forward, chissà, così riusciamo a fare un quintetto per partire nel Moved Groove, il Moved Groove di stagione in corso per il Breakfast Club. Grazie per il contrappunto e per i contenuti di oggi. L'appuntamento con la prima colazione in diretta è a domani. Sentiremo anche quello che sarà nella prossima puntata del Moved Groove. Aspettiamo. Vi ricordo che i profili degli atleti visivamente li avrete sulla pagina del Breakfast Club Fujiko. Domani voltiamo pagina, invece, a proposito di pagine, e sarà una nuova pagina e una nuova giornata da vivere, ascoltare e scrivere assieme. Grazie per l'attenzione dal vostro William Piana. Un buon imprevedibile martedì e anche una giornata serena che è accompagnata da un caloroso abbraccio per augurarvi un buon ascolto sulle frequenze dei 103.1. Ciao a tutte, ciao a tutti. A domani.